Gentili ascoltatori, sta per iniziare Uno, Nessuno, Centomilan, condotto da Uno e Nessuno, con la felice partecipazione di Cicciottello Manera. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi all'Elisabetta Fusconi Fan Club. Lo trovate su tutti i migliori social. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, una nuova puntata di Uno, Nessuno, 100 Milan. Fino alle 11 siamo con voi, con la nostra squadra in redazione, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, il nostro alpino in regia. Manera, Cicciottello Manera o Vestaglione Manera o Zucchina Manera, visto che ormai tiene questa zucchina semi-marcia che fa delle sculture modificandosi ogni giorno nel frigorifero da 25 giorni. Manera, fantastico. Vabbè, ma questa alpino gliela dobbiamo dedicare quando arriva, così si ringalluzzisce. Siamo pronti all'800 24 0024, ci trovate, e al 349-238-6666 ci trovate pure con messaggi o WhatsApp, anche audio. Vai! Enthusiasm about the future. Fatemi dire una cosa in apertura sulla notizia che per me incredibilmente, ma era inevitabile, porta ad aprire diversi giornali. Una cosa che pensavo di essermi messo alle spalle, ho quasi 50 anni, tutta la mia vita adulta da giornalista praticamente mi ha inseguito questo dibattito, e il dibattito è questo: pensavo davvero di essermelo serenamente lasciato alle spalle per sempre, ma Silvio Berlusconi è un perseguitato dalla magistratura? Sono 30 anni che questo dibattito va avanti e lo schema è il solito giornale che prendi, risposta che hai. Il giornale, per l'appunto, edito da Berlusconi, che dice: come, ecco l'ennesima prova, l'ha mostrata e l'ha fatta sentire Rete 4, questo audio registrato 7 anni fa e diffuso un paio di giorni fa di un giudice, Amedeo Franco, che faceva parte del collegio che condannò Berlusconi per frode fiscale, e poi va dallo stesso Berlusconi, o Berlusconi va da lui, insomma non si capisce, e dice che era stato un plotone d'esecuzione questa sentenza. E questo audio, tenuto 7 anni fermo, viene pubblicato poi da Rete 4, TV di Berlusconi, a dire: ecco la prova. Solo che il giudice adesso è morto, quindi non si può neanche chiedergli conferma, però c'è l'audio. Libero dice: certo, vedete, è la prova provata, e adesso dovete anche risarcirlo. Berlusconi, sul Libero c'è un tagliandino, se volete lo trovate in prima pagina, per mandare una richiesta alla redazione per dire: ora Berlusconi deve essere fatto senatore a vita come risarcimento. Non si capisce perché risarcimento, fatelo senatore a vita. E lo schema poi prevede che dall'altra parte, che ne so, il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio ha fatto una carriera, una vita, libri sull'antiberlusconismo, e dice: ma non vi sembra strano, scusate, che un giudice prima firma la condanna, poi va dal condannato a dire è stato un plotone d'esecuzione, e poi questo audio viene tenuto appunto in un cassetto dallo staff di Berlusconi e viene ritirato fuori adesso? E poi c'è Repubblica che invece oggi fa sapere che questo stesso giudice Amedeo Franco, nell'ultima parte della sua vita, è stato coinvolto in una vicenda un po' torbida, perché l'accusa nei suoi confronti, quando era già in pensione, era di avere promesso di aggiustare una sentenza a favore di Antonio Angelucci, che è l'editore di Libero, oltre che parlamentare berlusconiano. E in cambio di cosa avrebbe promesso di aggiustare questa sentenza? In cambio di un certificato medico. Mi ha detto: ma come un certificato? Sì, un certificato medico, ma mica per una cura, per una cura. Un certificato medico per far rifare le tette a una sua amica. Ecco, in questo marasma in cui non certo ci sarà la risposta, ognuno tanto ce l'ha dentro di sé, alla domanda: ma Berlusconi è un perseguitato dai magistrati oppure no? In questo marasma c'è un'unica certezza: tutto tutte le frasi o tutte le questioni che iniziano con Berlusconi finiscono con un paio di tette. Questa è l'unica cosa che io ho capito certa, sulla quale, come dire, il dibattito è mette tutti d'accordo. Altro che giorno della marmotta, ragazzi, altro che giorno della marmotta, siamo ancora qui sempre allo stesso punto. Tanto che ho detto all'Alpino, quasi quasi per questo schema che prevede dei ruoli ben definiti, ognuno che dice la cosa che sai già che dice, verrebbe quasi da pensare a un premio Giachetti. Poi ho detto, ma un premio Giachetti a chi? Non lo so neanch'io, un premio Giachetti da mettere lì, me lo do anche a me stesso che ne sto parlando, non lo so, un premio Giachetti corale, ce lo diamo tutti, a tutti gli italiani, tutti noi. Avete la faccia come il culo. Tutti, per questo dibattito, a tutti. Ora, siete adesso una vergogna. Attaccare! Questo sempre. Attaccare sempre. Silvio Berlusconi, attaccare sempre. Questa è un'altra cosa. Ricordo quando lo utilizzavamo, quando si era materializzato negli spogliatoi del Milan, credo, allenatore Pippo Inzaghi, che peraltro ha stravinto il campionato con il Benevento in Serie B. Vabbè, attaccare. Siete una vergogna a chi, Alpino? Tu? Non lo so, Elisabetta Fusconi forse, non so, chi noi, la redazione, non so, questo è un altro dibattito. Va bene, allora abbiamo tanti temi di cui parlare oggi, come sempre qua mettiamo tanti temi nel calderone e poi cerchiamo di fare una buona ricetta e comunque cerchiamo di darvi anche degli spunti per riflettere. Il primo spunto lo voglio dare andando ad Arese per tutta Italia, perché c'è una vicenda che sta creando un po' di scompiglio. Saluto il sindaco, che ringrazio, Michela Palestra, so che si è liberata per noi da una riunione importante. Insomma, i sindaci devono fare delle cose più operative quotidianamente che rispondere a una intervista radiofonica. Comunque la ringrazio, sindaco, e buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Allora, la vicenda è questa: c'è un assessore della sua giunta, l'assessore giunta del Partito Democratico, Enrico Ioli è l'assessore, che credo stia ospitando a casa un migrante originario della Somalia, solo che questa vicenda ha un po' creato molta polemica quando è venuto fuori che questa persona che è ospitata dall'assessore sarebbe indagato dalla procura di Bologna, se non sbaglio, dalla direzione antimafia, come addirittura uno dei finanziatori dei gruppi terroristici di Al-Shabaab, che abbiamo conosciuto anche perché sono coloro che hanno rapito Silvia Romano. Allora, sindaco, non entriamo nella vicenda giudiziaria che non conosciamo, però questo migrante è a casa dell'assessore effettivamente. Sì, però mi permetta di fare alcune precisazioni, nel senso che l'assessore ha aderito nel 2018 a un progetto Caritas di accoglienza per dare un contesto familiare a alcune persone migranti, in questo caso rifugiati politici, che avessero concluso il loro percorso SPRAR. Questo è avvenuto nel 2018 e l'esperienza è terminata proprio alla fine di quell'anno. Cosa succede? Succede che nel 2019 questo ragazzo viene arrestato, questo ragazzo somalo, sì, viene arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e nel febbraio del 2020 di quest'anno il giudice ritiene che possano essere concessi gli arresti domiciliari a questo ragazzo. Vi cito le parole del giudice perché credo siano significative: presso persone radicalmente estranee ai fatti per cui si procede. Quindi il ragazzo è effettivamente agli arresti domiciliari dell'assessore, in un contesto che però è una scelta di famiglia di dare un aiuto ho un ragazzo che è coinvolto oggettivamente in una gran brutta vicenda. Quindi... Esatto, cioè la questione, perché la questione chiaramente lei capisce che dall'adesione al progetto Caritas, che è una cosa per la quale molti magari saranno critici, io no personalmente, anzi dico complimenti, insomma, visto che spesso si dice prendeteli a casa vostra, e l'assessore ha aderito a questo progetto per prenderne uno a casa sua. Secondo lei non cambia la situazione nel momento in cui, certo siamo tutti garantisti, bisognerà vedere l'inchiesta, ma nel momento in cui viene fuori un'accusa di questo tipo? Allora, io rispondo per quella che è la mia parte, come diceva lei, non su il tema giudiziario. Quello che viene chiesto a me è di confermare, e io lo faccio senza indugio, così anticipo, diciamo, il risultato delle riflessioni di quello che è il percorso che stiamo facendo, di rinnovare senza indugio la fiducia a una persona che nei fatti sì. sta agendo in coerenza con quelli che sono i principi etici, valoriali, il recinto degli ideali in cui questa maggioranza sì. crede. Come comune noi abbiamo aderito ai progetti SPAR, invitando i cittadini a mettere a disposizione gli appartamenti per accogliere un'accoglienza diffusa, un'accoglienza sostenibile. Ora io dovrei modificare la mia posizione di fiducia a un assessore perché è coerente, perché dà concretezza a quello che noi abbiamo sostenuto. No, ma infatti, ma io non le chiedo la questione politica, è una questione, come dire, se vuole anche locale, no, sicuramente. Però è centrale. Molti perdoni, molti chiedono si dimetta l'assessore. Io questo non trovo che debba dimettersi. Le chiedo se non cambia la questione, cioè se è opportuno mantenerlo a casa anche se è accusato di questo. Tutto qui. Ma io provo a far riflettere lei e gli ascoltatori. Noi cosa chiediamo? Le persone cosa chiedono alla politica? Che siano conseguenti. Quindi nel momento in cui noi come maggioranza pratichiamo e sosteniamo un'accoglienza, un garantismo e un tendere la mano che è in difficoltà, se in primo luogo una persona che ha un ruolo pubblico, e questo è il tema, no? Che quindi viene sovraesposto, noi stiamo avendo un po' di clamore, però in realtà questa è una situazione su cui possiamo riflettere profondamente. Per una volta le persone coinvolte in ruoli pubblici, i politici, sono conseguenti con quello che praticano. Sì. Quindi sì. questo io credo che non possa dovrebbe essere un valore, lei dice, dovrebbe essere un valore, perché noi dobbiamo essere esempio. Poi per forza le persone, se diciamo una cosa ne facciamo un'altra, perdono la fiducia nella politica. Poi qua c'è un tema ideologico. Allora la scelta è dire sono favorevole all'accoglienza o non lo sono, e allora lì si aprono un sacco di riflessioni. Ma sì, in che sì, modo? Sì, sì. No, mi chiedevo se ci fosse anche mi chiedevo se ci fosse anche un sottodibattito, cioè resto favorevole all'accoglienza, ma dato che le accuse che piombano su questo ragazzo sono di sfruttamento dell'immigrazione, e lei per prima, visto i valori in cui crede, diciamo, non sopporterà l'idea che uno possa sfruttare l'immigrazione. Certamente, vicinanza al fondamentalismo, allora dice cambiano un po' le cose. Cioè, per dire, però, ne prendo un altro, ecco, ne accolgo un altro, quindi i valori li mantengo, però lui però no. Da dove trae origine la situazione? Innanzitutto in un progetto che era in un contesto diverso, in un contesto di accoglienza, e quindi la scelta dell'assessore della sua famiglia è stata complicata, perché si sono dovuti domandare se accogliere ancora una persona che peraltro non aveva alternative, e quindi se dare una mano, lasciando alla magistratura, che ha le competenze, tutto il percorso di giudizio e per arrivare a una sentenza. Ed è chiaro che tutti noi condanniamo fermamente ogni tipo di affiancamento ad agiti e a comportamenti fuori dalla legge, tanto sì. più quando si parla di immigrazione clandestina, quindi di sfruttare certo. Le persone nella loro difficoltà. Però io domando, faccio una provocazione. Sì. Una persona che va a fare volontariato in carcere, può essere ritenuta vicina alle... No, questo... no, certo, però, certo, certo. Cioè, capisco la provocazione. No? Per... Allora, un conto è l'agito del ragazzo che deve essere giudicato e nessuno su questo avrà reticenza a prendere posizioni ferme. Un conto è accogliere, un conto è prendendo le distanze da qualsiasi altra Sì. Lei dice per una coerenza dei valori anche in un periodo in cui, periodo ben lungo, i politici sono accusati di voltagabbanismo, di cambiare bandiera nel giro di poco o di cambiare atteggiamento. Lei dice almeno una coerenza nei valori in cui crediamo. Noi la manteniamo. Sindaco, io la devo salutare e la ringrazio insomma, per essere stata qui. Michela Palestra, voglio ricordare il sindaco di Arese, dove un assessore, l'assessore Ioli, ha a casa, perché lo aveva già accolto in questo ambito di solidarietà Progetto Caritas, un somalo che ha accusato ora dalla DDA di Bologna di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e anche di essere vicino al fondamentalismo islamico degli Al-Shabaab. Allora, saltiamo sul tema che insomma ci portiamo avanti da marzo, è innegabile, e ci porteremo avanti chissà ancora per quanto. Fabrizio Pregliasco, virologo, buongiorno. Siamo alle scienze biomediche dell'Università di Milano e anche direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi, buongiorno. Allora, intanto le chiedo questo, c'è già il nuovo timore per un nuovo virus, adesso dalla Cina hanno isolato un virus, ci aiuti a capire, perché già subito si dice ecco arriva il nuovo virus che potrebbe diventare pandemico. Ormai adesso, adesso funziona il contrario rispetto a prima, c'è il terrore preventivo appena sentiamo parlare di virus. Ci aiuta a capire, Pregliasco. Allora, noi in questi anni abbiamo affinato la capacità di individuare i varianti del virus influenzale. Ci siamo molto focalizzati in quella che è la sorveglianza con l'esecuzione di tamponi faringei, giusto appunto, al di là di quelli per il Covid, e quindi c'è una, come dire, maggiore attenzione nell'individuare nuove varianti di questo virus a livello mondiale e a livello anche di cosiddette zoonosi, perché questo virus, un H1N1 marchiato GE, è un come nome, è un virus in realtà del suino che però ha acquisito delle caratteristiche che potenzialmente lo potrebbero portare facilmente a essere trasmissibile uomo. Infatti non spieghiamo agli ascoltatori, zoonosi, se capisco bene, è il salto di specie, cioè perché finché il virus si trasmette da animale a animale. È una zoonosi, volendo anche il coronavirus SARS-CoV-2, o meglio, non lo è più perché era un virus animale che adattato all'uomo poi ha lasciato questo suo, come dire, substrato di base. Quindi le zoonosi in genere sono malattie dell'animale che però anche l'uomo può in qualche modo acquisire, quindi sono diverse in termini generali. Però, e questo virus nuovo dei maiali? Esatto, ma allora io lo vedo come una capacità del sistema di sorveglianza dell'influenza di individuare dei candidati possibili, poi non è detto che ciò accada, in effetti con la sensibilità all'argomento è ovvio che questa notizia ha avuto una maggiore notorietà, ma volendo abbiamo anche degli H5N1, degli H7N3, sempre sigle diverse di virus animali, sempre influenzali, che potrebbero avere questa... Diciamo la verità, Pregliasco, fino a un anno fa di queste notizie non ce ne fregava niente. Venivano messe a pagina 28 in un trafiletto. E adesso lei ci deve capire. Però ci sta. Io la vedo in senso positivo, cioè una capacità di individuare precocemente, per quanto possibile, nuovi virus, e quindi prepararci alla preparazione di un vaccino antinfluenzale. Per influenza ormai si sa come produrlo, basta solo aggiornare lo stipite virale da utilizzare. Quindi ribadisce però quello che è qualcosa che ci è successo oggi col coronavirus SARS-CoV-2 di brutto, con una pandemia seria e triste, ma la una guerra guardie e ladri, quella virus uomini animali. Sì, sì. Quindi in un mix che nei secoli ha fatto vedere i suoi effetti più o meno trucidi, non solo virus ma anche batteri, e quindi è una convivenza che spesso porta a dei guai. Alle guai, sì. Dei rischi ci sono e ci saranno. Senta, adesso, no, chiaro, adesso è stato intercettato, lei dice questa è una buona notizia e vuol dire che adesso siamo molto attenti, fa non molto pari con la notizia uscita oggi su tutti i giornali, è detta ieri, e cioè che soprattutto nella zona della Bergamasca si è ormai accertato che attraverso polmoniti strane, per la verità anche qui l'avevamo raccontato con diversi medici di base che lo avevano registrato, pare che nella zona di Alzano, soprattutto nel Bergamasco, già dallo scorso anno, fine dello scorso anno, c'erano dei casi anomali di polmoniti. Come numero, insomma, è chiaro che adesso devono essere esaminati in modo preciso, perché la polmonite, diciamo, interstiziale, quella che abbiamo imparato a dietro di smeriglio del coronavirus, è diversa come, diciamo, immagine radiologica altre polmoniti. Però sa, a Wuhan c'era già questo virus e dei medici di base dicono ci sono dei casi numerosi, forse qualcuno, non lo so chi è, ora indaga persino la magistratura, qualcuno poteva dire ma attenzione, non è che uno più uno fa due. Non è facile dirlo, non è che era così macroscopico, erano un centinaio di casi in più rispetto alla norma. È probabile che sia così, perché diversi segnali ci dimostrano che in effetti questo virus circolava ben prima del momento ufficiale di notifica. A dicembre, eseguendo successivamente, recentemente, delle indagini su campioni dei liquami a Milano e Torino, c'erano dei residui di virus, quindi sui donatori di sangue del Policlinico di Milano, riesaminando campioni utilizzati per, diciamo, le analisi per la trasfusione del sangue, ha evidenziato già la presenza di questo. Sono convinto che quello che noi abbiamo visto è stato l'effetto di un iceberg che si è, come dire, evidenziato nei casi un più pesanti, ma aveva una situazione preliminare di forme influenzali più o meno pesanti, che poi hanno anticipato. Bisogna capire se indaga la magistratura, vuol dire accertare eventuali responsabilità penali. Io non so, credo più magari alla, non so, distrazione, incapacità di intercettare qualcuno che non si è posto il problema, però vedremo. Senta Pregliasco, devo andare in pubblicità, però le voglio fare un'ultima domanda personale: ma come va la sua situazione di vita personale? Perché avevo letto di recente addirittura che c'era stata delle minacce. Sì, recente. Cioè, lei sono un po' un menagramo rispetto al fatto di dire attenzione, non abbassate la guardia, e dalla fine del lockdown una serie di persone mi danno del menagramo, ma non solo, mi dicono anche che insomma mi aspettano su casa. Ma questo questo per carità, cioè, c'è la pazzia, ma è sottoposto a qualche forma di tutela? No, ho mandato una denuncia alla Digos con tutta la documentazione. Vediamo cosa si riuscirà a fare, almeno anche per segnalare almeno a queste persone che si esagera un filino. Ecco. Una vita a divulgare, a cercare di far capire, e anche lei forse non aveva messo in conto un giorno di dover fare con questo tipo di... Uno dice, ma scusate, io studio, cerco di aiutare le persone, cerco di spiegare, cerco di essere chiaro. Il professor Pregliasco è uno di quelli che da anni in TV, in radio, cerca di dire guardate, comportiamoci così. E cosa finisce? Deve finire a fare una denuncia alla Digos perché qualcuno lo minaccia. E c'è anche questo, purtroppo, solidarietà per quanto possa servire anche da parte nostra. La ringrazio Fabrizio Pregliasco, andiamo un attimo in pubblicità. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora signori, sono le 9:36 minuti in diretta dal trasloco di Casa Manera. Fino a poco fa c'era un rumore in sottofondo. No, non è un trasloco. No. Ieri ti ricordi che ho detto che stavo caricando la lavastoviglie ieri mattina. Adesso la sto svuotando. Sì. Accidenti. E tutto il giorno ieri cosa hai fatto? Ho pensato. Senti, ho fatto altro. Hai sentito Tony Blair? Tony Blair ha fatto un'intervista nella quale ha detto che dal 92, credo, non lava un piatto, non pulisce casa, ma non hanno una governante, lui e Sherry. E quindi gli hanno chiesto, e come chi fa le pulizie? E lui con una flemma inglese britannica ha detto, probabilmente mia moglie deve aver fatto tutto. Cioè, non se n'è neanche accorto. Non era una di quelle mogli, come dici tu, con il... con il? Con la... quelle che impazziscono alle 7 del mattino. C'era un po' grande le pulizie del sabato mattina alle 7 meno un quarto, alle 7 con una rabbia di fondo per scaricare le tensioni della settimana. Esatto. Ed deve avere avuto una moglie silenziosa anche allora a pulire. Io pulisco di tanto in tanto quando il livello diventa insostenibile, per esempio quando sono quando c'è la polvere, troppa polvere, troppi piatti sporchi, ecco, accumulo, poi mi viene un momento di repulsione sfogo, e pulisco tutto. Sì. Mm-hmm. Allora, ti voglio far sentire un audio prima di andare all'ospite. L'audio è del ministro dell'istruzione Azzolina che, attenzione, deve avere innestato una campagna comunicativa all'insegna del adesso noi facciamo, perché due giorni fa qui ai microfoni Simone Spezia e Maria Latella ha detto che personalmente ha trovato un miliardo di lire, di euro. Personalmente. Ha detto addirittura, quando l'ho trovato, un funzionario del ministero mi ha detto lei è la prima che chiede quanti soldi ci sono al ministero. Personalmente. Adesso al ministero hanno scovato un'altra invenzione epocale. Senti qui. Quindi io so adesso classe per classe quanti metri ho a disposizione. E sulla base di questi dati vi posso dire che ad oggi, rispetto a quel metro di distanza, ho circa il 15%. Ma come mai? Come mai hanno questo? Perché hanno trovato, e questo è il secondo audio che vi faccio sentire, un software. Senti qui la scoperta. La scuola ha bisogno di spazi. È chiaro che se parliamo di un metro di distanziamento abbiamo bisogno di più spazi. E allora che cosa abbiamo fatto al Ministero dell'Istruzione? Abbiamo creato un software. Credetemi, non esisteva. Non avevamo un software che ci dicesse esattamente quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe delle nostre scuole, quanti negli auditorium, quanti nelle palestre, quanti nelle sale docenti. Questo software una planimetria, l'abbiamo creato. Insomma. Oggi siamo a circa il 76% di un software creato. Molti ironicamente dicono ma bastava guardare le carte, le planimetrie e fare le somme. Una scuola avrà una planimetria, no? Cioè, chiedere alle scuole, diteci in base alle planimetrie, facendo una somma, 20 metri quadri più 32 metri quadri, la palestra, non so, 300 metri quadri, fare le somme, perché abbiamo creato un software? Forse se non esisteva c'era un motivo, bastava fare delle somme. Sei polemico contro la ministra Azzolina, va bene, ribadisci sempre il tuo odio verso i 5 Stelle, diciamolo. No, non è vero. Sì, lo fai. No. È stato fatto prima di tutto è più bello dire software di planimetria. Planimetria è un termine che è un po' desueto. Non esisteva questo software. Ci sarà un motivo per cui non esisteva. Certo, forse. Perché la ministra Azzolina vuole essere una innovatrice e quindi si è data da fare. Tra l'altro in questo software inseriranno i dati delle planimetrie, immagino che. Quindi, sì, ma possono vederlo a livello centralizzato. A livello centrale la ministra Azzolina potrà vedere scuola per scuola quanti metri ci sono a disposizione per ogni alunno. Sembrava Pippo Baudo vecchia maniera, quello ho inventato io. Va bene, la ministra Azzolina può vedere mio figlio Beniamino quanto spazio ha a disposizione nella sua scuola. Anzi, la invito ad andarla a vedere fare, poi ce lo dica. Va bene, nella scuola Istituto Filippo De Pisis di Brugherio, quanto spazio c'è per mio figlio Beniamino? Vediamo Beniamino, se è fattibile questa cosa. Sì. Allora, abbiamo parlato di paure. Adesso io nel leggere che c'è il terrore dei gatti ad Arezzo sono un po' sobbalzato sulla sedia, ma ci aiuta tutto Paolo Barneschi, che è un veterinario di Arezzo. Buongiorno dottor Barneschi, grazie. Buongiorno. Perché si è sparso questo terrore per un gatto di una famiglia, un gatto che lei ha trattato, perché questo gatto gliel'han portato in studio, anzi mi pare di capire che ha morso anche lei questo gatto, che aveva un virus rarissimo, no? Che virus è? Ci aiuti a capire, in modo che possano capire anche coloro che non sono veterinari. Ma questo è un virus molto simile della famiglia del virus della rabbia, un listavirus, del quale per la verità ci sono vari serotipi, questo in particolare sembra che non fosse stato già ancora trovato. No, però, insomma, che adesso risultato... siamo tutti terrorizzati. Adesso questa roba del coronavirus ci ha congelati. Adesso si è scoperto appunto questo virus simile a quello della rabbia, che è una malattia gravissima, ricordiamo, molto letale. Sì. E che è stato trovato in questo gatto ad Arezzo. Sì, allora la sintomatologia è praticamente sovrapponibile quasi ai sintomi della rabbia. E per la verità devo dire che in Australia già lo conoscono, perché c'erano già stati tre persone decedute per questo virus, i quali non erano stati morsicati da pipistrelli direttamente, però, ok? Da pipistrelli, Sì, loro hanno i volpi volanti, hanno altri tipi di pipistrelli, però questo non significa. E non avendo fatto la vaccinazione antirabbica, che si può fare anche dopo il contagio, sono deceduti. Tra l'altro una donna dopo 27 mesi è deceduta, non dico altro. Accidenti, 27 mesi dopo per quel virus lì. Sì. Solo che ad Arezzo si è scatenato. Sì, sì. Ad Arezzo si è scatenato. Sì, perché questo sembra sia stato trasmesso appunto da un pipistrello al gatto, il quale poi ovviamente è deceduto, poi per con gli obblighi di legge sono state fatte tutte le indagini, però io mi sono preso la briga di andare un po' a guardare il listavirus, sembra che sia presente, hanno fatto delle indagini anche in Spagna, soprattutto per vedere quanti ce ne sono. Di pipistrelli affetti, e ho trovato che un 14% in Spagna sembra che siano positivi al listavirus, con dei picchi in alcune colonie addirittura al 60%, però non è letale per i pipistrelli, non sembra che sia così letale, e quindi hanno la possibilità di trasmetterlo. Leonardo, qui siamo tu che c'hai il pipistrello sul che ti nidifica, caro. Adesso Leonardo, è un po' che non vengono più qui sul mio balcone. No, ma siamo cioè, per carità, la preoccupazione c'è, so che ad Arezzo addirittura l'ASL si è attivata, i cani, sì, randagi verranno. Allora, queste sono norme di legge per la rabbia che vengono applicate d'ufficio praticamente, c'è un regolamento di polizia sanitaria che lo impone. E in realtà quello che a me interessa di più è che da Arezzo hanno iniziato a fare un sondaggio sui pipistrelli che vivono nella zona dove viveva questa gatta, e ora vediamo un po' i risultati, vediamo quanto effettivamente ce ne sia di questo listavirus. Accidenti. Ci stiamo forse facendo un po' prendere la mano in senso generale, sì, no? Nel senso, sì, quello certo. Sì, però sai, ma lei è preoccupato perché anche i proprietari di questo gatto sono stati morsi, sì, anche lei. Siamo stati morsicati tutti, eravamo il 4 a fare il vaccino, le immunoglobuline, è preoccupato, beh. Io relativamente, perché confido che funzioni il vaccino e funzionino le terapie messe in atto, non so, per le mie ricerche sembra di sì, ora vediamo se effettivamente sia così, ecco. Sì, lei lo dice un virus abbastanza nuovo. La signora che è deceduta dopo 27 mesi, quando ha cominciato ad avere i sintomi? No, dopo 27 mesi, sì. Cioè, i primi sintomi in Australia, se cercate gli articoli scientifici e viene riportato questo caso più altri due, questo in Australia. No, c'è da dire che ovviamente c'è da una parte c'è, dico anche a Leonardo Manera ma anche al dottore, del terrore, nel senso che ormai, ripeto, queste notizie fino a un anno fa non avrebbero conquistato le pagine dei giornali. Adesso, cioè, per esempio, Repubblica ieri raccontava questa storia di Arezzo, il gatto, il pipistrello, il morbo mai visto che spaventa Arezzo. Che dobbiamo fare, dottore? Allora, vivere serenamente? bisogna, in attesa dei risultati appunto epidemiologici sui pipistrelli, visto che il vaccino antirabbica funziona, se uno vuole essere sicuro, conviene vaccinare soprattutto i gatti che vivono all'esterno. quelli che hanno la possibilità di uscire, tacciare, che vanno in giro, certo. Sì, il rischio è per il morso diretto da pipistrello a gatto o da pipistrello a uomo, perché la rabbia in realtà si trasmetterebbe comunque da mammifero a mammifero, insomma, quindi con il morso, con il morso. Quindi, va bene, se non ci sono morsi si può stare tranquilli. Si può stare tranquilli. Dottor Barneschi, intanto noi la ringraziamo, ripeto, è il veterinario ad Arezzo che è stato anche morso da questo gatto, questa gatta che poi è morta. Che poi è stata portata anche in una clinica della Val di Nievole. Quando io ho pensato, ho detto Val di Nievole, Leonardo, il nostro amico Anacleto, va a stare attento anche ai gatti con la rabbia. Dovremmo sentirlo uno di questi giorni, cioè, pure i gatti con la rabbia ci porta. Vabbè. E, che dire, insomma, questa è la storia. Noi andiamo al traffico. Non ne vuol sentir parlare, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, sono un'elettrice di centrodestra, quindi nulla a che fare con i 5 Stelle. Ma mi è sorto un dubbio, non è che in questo momento il PD vuole, tra virgolette, riabilitare Berlusconi per poi portarlo al governo e far approvare il MES? Grazie Raffaella. Buongiorno. No, quello che è questo governo è una mandria di pazzi furiosi allo stato brado, nonché incompetenti. Vorrei capire, ma se io prendo il mio gatto, lo ammazzo e me lo metto ad arrostire davanti alla stazione della mia città, è tutto normale? No, infatti c'è questa vicenda di questo immigrato che è stato beccato a rostire un gatto e credo che risponderà, insomma, di questo reato. Non è normale arrostire un gatto, ci mancherebbe. La prima ascoltatrice ha fatto una bellissima dietrologia. Bene, sì, sai che però mi ero distratto, ho capito MES PD, se me la riassumi, no, giuro, no, mi ero è disinteressato agli ascoltatori, Alessandro, non so. Ma non è vero, ero distratto, niente di quello che dite. Stavo leggendo un messaggio che mi è arrivato. Vabbè, me la vuoi rimandare o no? Non c'è tempo. Mandate WhatsApp, che tanto Milan non li ascolta. Buongiorno, sono un'elettrice di centrodestra, quindi nulla a che fare con i 5 Stelle. Ma mi è sorto un dubbio, non è che in questo momento il PD vuole, tra virgolette, riabilitare Berlusconi per poi portarlo al governo e far approvare il MES? Grazie. Porca Raffaella. Un disegno molto lungo, complicato. A che ora la mia chiudiamo? Risposta è prego Manera, a te il microfono. A che ora chiudiamo prima della radio? Ha chiesto a che ora chiudiamo, se non avete capito, cari ascoltatori. Ma no, prima del giornale radio. Tra 5 minuti, vabbè, dovrei farcela. Vediamo se riesco a finire giusto. Chiudiamo. Vai. Alessandro Milan, il menefreghista dei WhatsApp. Aspettila, stai perdendo tempo. Vai avanti. Allora, dopo aver parlato per mesi solo di coronavirus, ora si sta ricominciando anche con le polemiche politiche. Lo vediamo anche con la vicenda Berlusconi. E io stanotte ho fatto un sogno, non si parlava più di coronavirus. Forse nel mio sogno il coronavirus non era mai esistito e c'erano di nuovo le elezioni. E io andavo sereno, tranquillo e sapevo per chi votare, convinto che quel partito che stavo per votare avrebbe migliorato la mia vita e avrebbe migliorato l'Italia, si sa, sono sogni. C'erano solo due partiti, uno un po' più conservatore, l'altro un po' più progressista, e non c'era bisogno di premi di maggioranza per aiutare chi aveva vinto, si sa, sono sogni. Che poi io il premio di maggioranza non l'ho mai capito, di solito si dà il premio di consolazione a chi perde, non si aggiunge un altro premio a chi ha già vinto. È come se uno vince al Superenalotto e in più gli regali altri 100.000 euro perché ha vinto. No, casomai 100.000 euro li dai a qualcuno che ha perso. Invece in politica c'è il premio di maggioranza. Un partito che ha già una certa maggioranza e in più gli regali ancora qualche parlamentare. Così gli altri partiti poi si deprimono e diventano rancorosi, non fanno un'opposizione costruttiva, come si auspica sempre, l'opposizione costruttiva, che sembra un po' anche una malattia. Cos'hai? Ho un'opposizione costruttiva. ma nel mio sogno dopo le elezioni era chiaro chi aveva vinto e chi aveva perso. Chi aveva vinto governava, chi aveva perso si opponeva costruttivamente. Sono sogni. Nella realtà la situazione italiana è sempre un po' diversa. Dopo le elezioni più o meno tutti dicono di aver vinto e di poter governare l'Italia. Ma cominciano i guai per il Presidente della Repubblica, che deve decidere a chi affidare il cosiddetto mandato esplorativo, che viene affidato a una persona che deve capire con quali partiti si può fare il governo. Come quando sei ragazzino e mandi un amico a cercare di capire se quella che ti piace è disposta a stare con te. Anche questa è una specie di mandato esplorativo. Il Presidente del Consiglio è incaricato, quindi deve capire con chi poter fare il governo, anche attraverso qualche concessione, magari un sottosegretario, un forestale in più. In Italia, in certe regioni, ci sono così tante guardie forestali che l'unico partito che vincerebbe le elezioni senza problemi sarebbe il partito dei forestali. Poi, quando il governo è formato, quando qualche volta si litiga, il Presidente del Consiglio fa la voce grossa e dice «basta, adesso metto la fiducia», che è una cosa strana la fiducia. Obblighi qualcuno a fare una cosa della quale non è convinto, pur di non far cadere il governo. E la cosa è ancora più strana quando quelli che non sono convinti sono all'interno del governo stesso che mette la fiducia. Sono loro stessi quasi sempre. È come se una persona dicesse «mi obbligo a fare una cosa della quale sono convinto perché in fondo non ne sono convinto». In Italia si chiama politica, nella vita di tutti i giorni si chiamerebbe TSO. E così si va avanti tra leggi che passano alla Camera e si bloccano al Senato, tra leggi che passano al Senato e si bloccano alla Camera e molte altre leggi disperse in commissione. E non c'è mai nessuno con un po' di sensibilità che proponga un minuto di silenzio per tutte quelle leggi disperse che non approderanno mai alla Gazzetta Ufficiale. Alla fine si tornerà a votare, prima o poi, e anch'io forse tornerò al seggio, ma non credo che saprò per quale partito votare. Andrò lì, guarderò la scheda e poi mi farò guidare dall'istinto o dalla nostalgia o dalla speranza o semplicemente dal caso. Tanto in questi mesi abbiamo capito che quando ci sono problemi seri la politica non basta perché servono le task force. Ecco, forse a me servirà una task force per decidere finalmente per chi votare in questi tempi complicati. Ho finito? Ce l'ha fatta! Giusto, ce giusto! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta, questa è la notizia, a chiudere in tempo per il giornale radio. Poi avremo la seconda ora di uno nessuno 100.000, anche in tempo per... giusto anche. Avremo Enzo Salvi, l'attore Enzo Salvi, amico anche di Leonardo Manera, che ha subito vicenda incredibile di aggressione ai suoi pappagalli. E affrantissimo, lavorato... tra l'altro stanno molto male i suoi pappagalli. Abbiamo lavorato insieme in un vecchio programma di Italia 7 che si chiamava Seven Show. Seven Show, dopo... bene, sì. Ricorderemo questi bei tempi, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Scusate, ma una tabella Excel non andava bene? Vorrei proprio sapere quanto hanno speso per questo software. Alessandro, guarda, potresti aver ragione, ma stai facendo una polemica di lana caprina inutile, perché lei ha parlato di un software. Quello che tu stai dicendo è banalmente un foglio Excel, quindi state dicendo la stessa cosa. Non ironizzare inutilmente, Alessandro, dai, cerca di fare le cose serie. Sono una zucchina nel frigo di Manera, aiutatemi, ho freddo. Beh, non è male, Leonardo, la zucchina nel tuo frigorifero è sempre, liberatela, qui, è sempre qui. Liberatela, è sempre qui la mia zucchina. Dopo mando la foto. Va un bene. Po' che stanno venendo tutte le rughe, è diventato rugosa. Sì. Allora, caro Leonardo Manera, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 che introduciamo con un ospite che mi fa molto piacere avere qui. Io devo dire, ho visto il video in cui lui in lacrime, straziato, e mi si è veramente stretto il cuore. Piange per come una persona ha aggredito senza motivi il suo amato pappagallo Fly, uno dei suoi pappagalli. Enzo Salvi, buongiorno Enzo, eccoci qua. Buongiorno a voi, buongiorno Leonardo. Ciao, eccolo, ciao Enzo. Come stai, caro? No, ci siamo incrociati. Sto bene. Anche a me. Ti ricordi i tempi del Seven siamo Show? Stati, siamo stati i precursori del cabaret televisivo, noi con il Semi Show nel 96, se non erro. Sì, sì, 96, sì. Esatto. Eravamo giovani. Eravamo giovani. No, ma dai, no, siete vero, giovani, no. Siete giovani, no, perché sì, siete giovani? No, io veramente, allora, intanto grazie Enzo di essere qui, ma mi... No, ma veramente mi si è stretto il cuore vederti vedere un uomo che piange così per un animale, vuol dire intanto che ha una sensibilità, una tenerezza insita veramente bella. Ma che è successo a questo povero il mio pappagallo Fly? Il mio pappagallo Fly fa free flight, che è volo libero, sì. Io sono vicepresidente di un'associazione importante che è Passione ai Pappagalli, io tutti i giorni porto a volare il pappagallo, perché il messaggio che stiamo facendo conoscere alle persone che desiderano avere questi splendidi animali e quelli di riuscire a farli volare, perché sono nati con le ali e hanno il diritto di volare rispetto a tanti altri che li tengono segregati nelle gabbie solo per il gusto di sentirli ripetere le parole. Come tutte le mattine sono andato a farlo volare, sono le 7:30 di mattina vicino a casa mia, qui a Ostia Antica. Io abito a Ostia, ma sono 10 chilometri, in un posto completamente deserto dove coltivano il prato precostituito, per cui tu immagini un paradiso, la mattina alle 7 non c'era nessuno. Ero in compagnia di un mio amico che spesso e volentieri mi accompagna. Fly ha iniziato a fare i suoi strepitosi voli e all'ultimo praticamente è tornato da me e si è posizionato, come fa spesso e volentieri, su un palo della linea telefonica che stava da me a una distanza di 100 metri. All'improvviso è spuntato questo soggetto dal nulla, completamente dal nulla, e l'ho visto che stava iniziando a tirare i sassi al mio pappagallo. Gli ho urlato di fermarsi, cioè che si stava rendendo conto che potevo ucciderlo. Questo non mi ha dato assolutamente ascolto, ha continuato a tirargli i sassi e tra i sassi ne ha preso uno grande che ha colpito in pieno viso il mio pappagallo, che è caduto rovinosamente a terra dall'altezza di 6 metri, quanto penso che sia l'altezza dei pali. Io mi sono precipitato al soccorso del pappagallo, l'ho preso tra le mani e praticamente il pappagallo era morto, ti giuro su Dio, morto. E io ho avuto un mancamento, mi sono accasciato per terra con il pappagallo urlando mi ha ucciso il pappagallo. Lui che ha fatto? Ha preso, mi ha sorpreso alle spalle e mi ha dato un calcio sulla schiena, mi ha fatto per allontanarsi. Il mio amico che stava con me ha tentato di fotografarlo per poter portare una foto dei carabinieri per poterlo identificare, ha aggredito anche lui, ha dato dei schiaffi, ha tentato di rubargli il cellulare e poi si è dileguato in aperta campagna. Ma chi era questo? Un extracomunitario. Un extracomunitario che è una ragazza di colore. Sì, sì, ma nulla toglie la sua origine, no, perché potrebbe essere chiaro, giallo, verde, azzurro. Mi ha chiesto chi era un extracomunitario, ma poteva essere benissimo un italiano, un cinese, un francese, un tedesco. Io non sono contro nessuno, cioè, ognuno rappresenta se stesso, è un'azione così crudele di quello che l'ho fatto senza motivo. Io chiaramente poi ho portato il pappagallo subito, abbiamo soccorso il pappagallo in clinica, dall'attacco è risultata una frattura molto importante del cranio e questo veramente mi ha fatto stare ancora più male, perché chiaramente l'impatto della pietra e soprattutto quello della caduta di circa 6 metri hanno fatto sì che la frattura era importante. Il pomeriggio questo soggetto è stato preso e portato alla stazione carabinieri di Ostia Antica. Di che deve rispondere? Qual è il reato? È stato denunciato a piede libero e la sua risposta è stata, per giustificare l'abitazione senza motivo, secondo me, per il mio pappagallo, che lui praticamente l'ha presa a sassate perché si era spaventato, perché ha sentito parlare da sopra un palo, non aggiungo altro. Questo è quello che mi hanno riferito i carabinieri. Sì, ma è incredibile. Il pappagallo parla perché è straordinario anche in questo. Cioè, però amici, una violenza inaudita. Gli ha tirato quelle pietre proprio con la violenza, gli occhi accecati. Non lo so, mi è sembrato stato un set nel film di Tarantino. C'è proprio una cosa che è ingiustificata. Poi la cosa che veramente mi fa soffrire a me, che questo sta in giro. Io sto davanti al mio pappagallo, che per me è un figlio, anche perché 3 anni sono... da quando ha 8 mesi che lo porta a volare tutti i giorni, perché il pappagallo che vola è un atleta, per cui va continuamente allenato, perché chiaramente le prestazioni, la struttura muscolare è molto importante per questo. Poi col pappagallo io ho un rapporto come gli altri animali che ho, cani e pappagalli, veramente di grande empatia e di amore reciproco, per cui mi fa star male. Quello che mi fa stare male è che, oltre che ha tentato di uccidere il mio pappagallo, che mi ha aggredito a me, il mio amico, dopo mezz'ora è uscito e sta a piede libero. Questo è il discorso. Sì, la buona notizia è che è stato identificato subito, poi quindi, difficilmente. Grazie alla, foto immagino... che abbiamo, grazie alla foto che siamo riusciti a scattare e dare carabinieri. Però sì, il risultato poi alla fine è questo, guarda, qua. Guarda, noi, la cosa che di recente, guarda, settimana scorsa abbiamo parlato, se si ricorda anche Leonardo, di quelli che in Trentino hanno sparato a un'aquila reale, cucciolo. Erano, sì, ma ti sto dicendo, guarda, nido, io sono, cioè, io personalmente cioè, amo gli animali, crudele con gli animali ogni forma è di violenza, capito? Cioè, apposta quello. Non faccio discriminazioni perché lungi da me, ho molti amici di varie etnie del mondo perché mi vogliono bene tutti, anche perché noi siamo personaggi pubblici, però... questo soggetto fino a se stesso, ripeto, può comportarsi così con questa violenza gratuita, inaudita, ingiustificata, mi logora il cervello, quello è il problema, che io adesso sto davanti a un pappagallo che sta, per tanti può essere solo un pappagallo, per me no, per me è come un figlio che sta lottando dalla vita alla morte, quello è il problema, capisci? Cioè questo che come mi ha lasciato così. Amore? Com'è esatto, come è nato l'amore per i pappagalli? L'amore degli animali ce l'ho veramente dalla nascita praticamente, poi... per i pappagalli è stato, diciamo, il mio primo pappagallino me l'ha regalato mio padre ondulato, che c'avevo un anno e mezzo, per cui da lì poi è stato un crescendo di avere animali in casa, ecco, per questo io... Certo. Cos'è la bellezza? DNA, ci provi a descrivere per gli ascoltatori in che cosa è la bellezza, la regalità, la maestosità del pappagallo, cioè che tipo di... Il pappagallo considera che c'è un'intelligenza, diciamo, è stato studiato chiaramente da coloro, gli esperti, c'è un'intelligenza paragonata a un bambino di 5 anni, cioè, il pappagallo è monogamo, si affeziona al suo compagno umano veramente in una maniera, cioè dimostra l'amore, cioè tu consigli che il mio pappagallo quando è arrivato e atterrato sul palo mi chiamava papà papà papà, e come tutte le mattine lui scendeva e mi veniva sulla spalla, giocherezze, come rinforzo positivo, una dimostrazione d'amore nei suoi confronti, perché quello era chiaramente la sua ricompensa, ecco. Mm. Che dire, il pappagallo mi dà una gioia, cioè noi quando organizziamo questi papparotumi con le mie associazioni, tu c'è l'occasione di vedere 30-40 pappagalli che volano nell'alto di cieli, e vedere un cielo colorato è veramente una grande emozione, ma soprattutto la gioia di dare la possibilità a questi uccelli di poter volare. Sì, a me è capitato di vederli in Costa Rica, nel senso nei giri delle foreste, di sono vedere questi cieli colorati, magari li vedi blu, li vedi rossi, perché sono volano poi all'altezza a 100 metri, volano, si possono vedere, sono bellissimi. Così che nonostante che era da ammortito e sotto shock, quando sono entrato dopo che mi hanno fatto l'attacco, la prima cosa che ha detto è stato ciao. Quando mi ha visto, no. Che voglio aggiungere altro. Ma quindi, questo. Tu hai insegnato a parlare al tuo pappagallo, nel senso... Sì, ma guarda, non c'è bisogno di insegnarti, perché loro per natura ripetono i vocaboli. Poi sono per associazione, per dire, io c'ho un altro pappagallo che è Chicco, che è un arlecchino, lui quando, per farti capire, quando sente che squilla il telefono dice pronto. Quando sente il suono del citofono fa chi è, pensa. Certo, certo. Enzo, spero che si riprenda, insomma, intanto. Io me lo auguro, grazie volare, a voi per la solidarietà e mi auguro, insomma, di non poter più assistere a queste scene di violenza gratuita che veramente non hanno ragione di essere, perché come ha colpito il mio pappagallo poteva colpire una persona, un bambino, per cui... No, certo, quello che dico io, uno che fa una crudeltà del genere è disponibile, è disposto, sì, a fare, sì, una crudeltà nei confronti di chiunque. Di, quello, che mi preoccupa, perché... quello che mi preoccupa a me è questo. Che saperlo libertà, vabbè, chiaramente mi destabilizza, anche perché io chiedo solo che la nostra incolumità venga tutelata, però così rimarremo solo dei bersagli, c'è poco da fare. Sì. Grazie Enzo Salvi, un grande abbraccio. Grazie ovviamente. A voi, grazie. Ciao Enzo. Ciao. Grazie davvero. Guarda Leonardo, tra poco, visto che poi c'era un ascoltatore prima, ci ha detto, cercheremo di parlare oggi una puntata, no, non dico monotematica sugli animali, però abbiamo parlato del gatto prima di Arezzo, con i timori che ci sono, ora del pappagallo. Adesso parleremo, andando a capire, di questo ragazzo che ha arrostito un gatto. Avremo il sindaco tra poco del paese dove è successo, non lo so. Succede questo. Certo, questo ragazzo immigrato ha detto l'ho fatto per fame, non sapevo che mangiare. Tra poco, dopo il traffico, cercheremo di capirci qualcosa. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Ah, Allora, 10-19 minuti, caro Leonardo Manera, ti ha fatto piacere sentire Enzo Salvi, ma guarda che se vedi questo video in cui in lacrime lo trovi online, parla del suo pappagallo appena successo, è veramente straziante, si vede il modo in cui è legato a questo animale. Beh, l'abbiamo sentito anche adesso, che era molto ancora colpito, no? Molto provato. Eh sì, a proposito di animali, io vorrei capire cosa è successo, perché questa notizia ha terremotato tutti dicendo ma un gatto arrostito, una cosa veramente che fa ribrezzo solo a dirlo. Voglio salutare il sindaco, siamo sindaca di Campiglia Marittima, siamo in provincia di Livorno, Alberta Ticciati, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Perché su tutti i giornali c'è questa foto, devo dire è stata usata anche a livello politico, ma non mi interessa tanto la questione a livello politico, magari lei qualcosa ci può dire a riguardo, di un immigrato, credo, se ho capito bene, che per fame si è messa ad arrostino un gatto. Ma davvero è successo questo, sindaco? Allora, evidente insomma che un fatto assolutamente molto grave da condannare, anche se molto strano, io lo dico sinceramente, perché insomma in questa realtà noi abbiamo avuto sino a un anno e mezzo fa centri di accoglienza anche con numeri insomma abbastanza sostenuti, senza però aver mai avuto nessun tipo di problema di ordine pubblico, di sicurezza o quant'altro, quindi ha sorpreso molto, lo dico sinceramente, anche me. E non ci sono problemi di fame in questo territorio, nel senso che noi dal punto di vista sociale teniamo molto alla salvaguardia e al sostentamento del nostro tessuto, abbiamo servizi sociali strutturati, abbiamo servizi di consegna dei generi alimentari, quindi insomma infatti, ma io mi immagino ci sarà la Caritas, ci saranno le associazioni, ci saranno le parrocchie, ci saranno le. Esatto. E quindi insomma un po' di stranezza c'è in questa vicenda oggettivamente. Certo, ma in che cosa vede la stranezza? La stranezza nel fatto che questa persona si sia ammattita, non so come dire. Allora, il tema è questo, il ragazzo, tra l'altro molto giovane, 21enne, è un ragazzo appunto proveniente dalla Costa d'Avorio, che su questo territorio non lo abbiamo mai visto prima, quindi non era diciamo una persona conosciuta, e che probabilmente stiamo indagando. Io ho attivato ovviamente i servizi sociali e le forze dell'ordine verificare ecco le condizioni di questa persona, che evidentemente condizioni mentali, lei dice. Esatto, perché se evidentemente ha fatto una cosa di questo genere, chiaro che ci sono delle difficoltà legate alla psiche, indubbiamente. Certo. Ma eventualmente che tipo di reato è configurabile, se è possibile configurare un reato? Non puoi uccidere un animale comunque. Sì, ho capito, dico, ma qual è il reato che si può ipotizzare, di cui può essere imputato? Ma tra l'altro questo ragazzo ha dichiarato alle forze dell'ordine che ha trovato l'animale già morto e quindi ha deciso quindi in qualche modo, no, di cucinarlo per mangiarlo, perché a suo dire insomma aveva fame. Il reato è stato denunciato ovviamente per danni all'animale ovviamente, e per aver appiccato il fuoco in luoco pubblico, perché appunto era proprio nella zona centrale della stazione, che peraltro insomma intorno alla stazione ci sono molte aree verdi, molti campi dove avrebbe potuto in qualche modo nascondersi, ecco, quindi anche questo è singolare. Sì. C'è poi infine l'aspetto politico, se vuole, insomma lo sappiamo, sono le elezioni in Toscana, no? Per cui si è subito scatenato il dibattito sull'idea dell'accoglienza, l'immigrazione. Sì. Lei è un sindaco di centro-sinistra, giusto per far capire agli ascoltatori. Sì, che dice di questo? Purtroppo non dovrebbero esserci situazioni di questo genere, perché atti, no, così gravi e così preoccupanti così sconvolgenti, no? Per la nostra cultura, per la nostra società, non dovrebbero essere utilizzati per fini politici. A distanza di nemmeno un'ora erano già postati da Ceccardi, Salvini, e la cosa, devo dire, non mi è piaciuta affatto, lo devo dire sinceramente, perché si può avere posizioni, idee, ma strumentalizzare un fatto isolato, perché di questo si parla, seppur grave, ma isolato, e da contestualizzare, da approfondire, perché poi non si può, diciamo, come si dice da noi, no? Far di tutta l'erba un fascio, quindi vanno analizzate le singole situazioni. Che questo diventi il pretesto per dire che l'accoglienza in questo territorio non ha funzionato, non soltanto dice non l'hai piaciuto, diciamo, è scorretto, ma non è neanche la fotografia reale di ciò che è avvenuto su questo territorio, dove, ripeto, per 4 anni i centri di accoglienza sono stati gestiti e dal mio punto di vista hanno dato i loro frutti alle persone che erano lì accolte e non hanno creato problemi per la comunità. Quindi, certo, va bene, sindaco, noi la ringraziamo, ripeto, Alberta Ticciati, sindaco di Campiglia Marittima, dove è avvenuta questa vicenda. Leonardo, basta, voglio dire, speriamo di fermarci qui nella pazzia sugli animali. È tipico oggi c'è sempre qualche episodio che fa immaginare problemi mentali, insomma. Cose che accadono in Italia. Che succede? Oh mamma mia! No, ma non è stata richiesta da nessuno, peraltro. Nessuno ha chiesto Elisabetta Fusconi. Perché parte questa cavalcata delle Valchirie non richiesta? Cucù, buongiorno. Ho deciso io d'imperio di prendere possesso del microfono. Ogni tanto c'è capita. La è il potere svizzera, rosa. Attenzione. No, stavo pensando che tutto questo parlare di animali di stamattina mi ha fatto venire in mente quando 2 anni fa ci siamo occupati di quel nobilissimo referendum, civilissimo referendum che si è tenuto in Svizzera 2 anni fa. Ti ricordi che ne abbiamo parlato? Esatto, corna. Per tutelare le corna tagliare di mucche, o no, capre, le corna delle tutelarle delle, con la Costituzione. Sì. Ahimè, e chi ha vinto? Sai che non anni me lo dopo ricordavo possiamo anche svelarlo. 2 anni dopo. Possiamo. Clamoroso, c'è uno scoop. Possiamo svelare 2 anni dopo chi ha vinto. Ah no, non ce lo ricordiamo. Sarebbe da breaking news. Io vorrei una sigla da breaking news. Leonardo, non so se si rendi conto, il popolo svizzero si è espresso in un referendum se tagliare o no, se tenere o no le corna di le mucche corna. E capre. Ti ricordi, Leo? Sì, ma non ricordiamo chi ha vinto, non ricordiamo più. Niente, lo svelo. È un epilogo triste, a mio avviso. Cioè? Niente, bocciato il referendum. Sì, assolutamente. Questa mutilazione va avanti. In realtà è giustificata per questioni proprio di sicurezza delle mucche capre stesse. Come difende, sì. Come difende la Svizzera. Essendo un pochino lievemente in inverno stipate dentro le stalle con le corna. Si farebbero male, ecco. Se avessero vinto gli altri direbbero: vedi gli svizzeri che bravi, avendo vinto quelli delle corna, dice beh sì, è giusto. Intanto abbiamo sondato il parere popolare su questo, non mi risulta che in Italia sia mai avvenuta un'iniziativa popolare di questo tipo. Ma gli svizzeri sono nazionalisti, sono patriottici? Matti, fin troppo a mio avviso. Sì, troppo. Tantissimo, c'è un campanilismo che è quasi stucchevole secondo me, esagerato. Sì, no, secondo me non è così, non è vero. No, perché è lo strano, svizzero Leo, non che ti senti. No, perché lo svizzero non si sente mai parte della Svizzera. Lo svizzero italiano si sente un po' più italiano, quello francese. Non c'è. Allora, stai svizzera. Dicendo una verità. Non no, allora, svizzero. Diciamo che uno si sente non del cantone al quale appartiene, quello è vero. Dopodiché, cioè, neanche del ceppo linguistico, no, del cantone. Il cantone è sovrano. Dopodiché si rendono conto di far parte di una confederazione, l'hanno voluta, cercata e la difendono strenuamente. Però quindi uno del canton Uri si sente un, come si dice, un non urigino. Lo so, un urino, non ne ho idea, ma urino, si sente di avere poco da spartire con un ticinese e viceversa, questo indubbiamente. È uno del canton Giura, come si dice, un giurese. Comunque l'avete presa con scioltezza l'esito referendario, nel senso non vi ha intristito, a me un po' sì. Sapere dopo no, 2 anni che niente. Forse mi ero intristito 2 anni fa, non lo so, adesso non credo, credo di aver dormito quella notte dopo quel referendum. Vabbè. Però Io devo dire, la notizia non mi tange minimamente. No, e non ti tangeva neanche due disinteresse, ma neanche prima. Pensa che ne abbiamo trattato in onda anche con un ospite, sì, ricordo, sì, bene, vero? Con un ospite. Abbiamo trattato il problema, portando agli ascoltatori questo problema, esibendo agli ascoltatori questo problema. Va bene, Elisabetta Fusconi, di vuoi dirci qual è l'apertura, la notizia di cui si parla oggi così in Svizzera, cioè quella, proprio quella sulla bocca di tutti nei bar? Niente, è l'impennata negli Stati Uniti dell'epidemia, è questo. Siamo seri, ma certo, sì, no, sono molto preoccupati. Parlate di quello che succede oltreoceano. Parlate di cose di cui parliamo tutti. Siete come noi. Parliamo di cose serie, dopodiché qua apriremo un dibattito sul fatto che anche qua se ne parlino di cose serie sempre e comunque, vabbè. Ma vabbè, dai. Vabbè. La notizia è: gli svizzeri sono come noi, parlano del coronavirus, non parlano di cose strane, sono come Leonardo e mangiano Manera, tanto risotto, vi dirò, tantissimo come risotto. Noi. Sì, il risotto. Ma come? Ma il risotto è uno, va bene, parleremo, faremo una pagina dedicata. Velocemente, la ricetta tipica svizzera, i rösti. Vabbè, i rösti e la fonduta, che se la contendono con la Val d'Aosta, la fondue, sì, da sempre c'è questa guerra che poi gastronomica. È più tipico della Val d'Aosta. Non ha niente di tipico la Svizzera, è un paese veramente. Guarda, stai dicendo un'eresia, ma con questo io torno a lavorare. Era così, secondo un'incursione. Me l'ambasciatore svizzero ci fa veramente. Ci querela, guerra, ma io con lui d'altro canto. Ma infatti. Vai a lavorare. Ciao, a lavorare. Buona giornata. C'è la borsa. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading. Vi presenta. 1, nessuno, 100 Milan. Ma mi chiedo, il software della Azzolina, no? È stato elaborato dalla sua task force. Lapidano i pappagalli, mangiano i gatti. Beh, da non berlusconiano posso solo dire che è inquietante il fatto che la magistratura e la giustizia siano in queste condizioni. È davvero inquietante. Il discorso in generale mi sembra abbastanza condivisibile su questo. Se vuoi, Leonardo Manera, non seguirmi, perché sennò dopo i magistrati si arrabbiano e dopo ce l'hanno anche con te. Ma oggi leggete Mattia Feltri, che parla appunto della vicenda di Amedeo Franco, di questo giudice, oggi in prima pagina della Stampa, e dice Mattia Feltri: non mi stupisce che a sinistra non abbiano niente da dire, ma niente di niente, tranne Renzi. Non mi stupiscono le chat dei componenti del CSM. Non mi stupisce che abbiano esteso le occasioni conviviali e mercantili alla politica. Mi stupisce lo stupore. Mi bastò, infatti, poco più che ragazzo, qualche mese da cronista di giudiziaria per vedere degli uomini che, come me e come te, soltanto più superbi e da un certo punto in poi determinati a scrivere la storia d'Italia. Mattia Feltri, senza dire il dibattito Berlusconi perseguitato, no, però Mattia Feltri dice: non sono per nulla stupito, avendo conosciuto, sì, non bisogna fare tutta l'erba un fascio, dai, dillo tu. No, io invece non bisogna dico fare che tutta l'erba un fascio. Lo stupore, dillo, sai da ti cosa ordino deriva? Dirlo? Ti ordino, sai da cosa non deriva? Andiamo avanti finché non dici che non bisogna fare tutta l'erba un fascio. Allora, sai non da cosa deriva lo stupore? Sì. Lo stupore deriva, secondo me, dal fatto che noi, comuni cittadini, pensiamo sempre che chi ricopre delle cariche importanti sia un po' meglio di noi. E invece poi certo, arriva sempre l'amarezza di scoprire che invece sono come, a volte anche come peggio me, di noi. Come questo te. Vale per la politica, per la magistratura, ma c'è questa candida illusione per la quale chi ha quei ruoli, noi immaginiamo che abbia qualcosa in più. Non è vero. Soprattutto ruoli di persone che devono giudicare della vita, perché giudicano della libertà di altri cittadini e quindi della vita, di ciò che è più prezioso nella vita di tutti noi. Comunque, dai, che dobbiamo fare? Questo è Io come al solito ho un po' di languorino a quest'ora e quindi sono felice che ci sia venuto a trovare il nostro amico David, chef del Terra Matta, Via Trionfale a Roma. Ciao David, eccoci. Ciao, qua. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Eccoci. Subito qua. Una grande notizia, la zucchina di Manera resiste. Ha delle forme sculturali che assume delle posizioni contorte lì nel frigorifero, ma resiste. Ma che ci deve fare questa zucchina? A questo punto mi sa che gli conviene essiccarla, perché se la secca poi a grattare sopra la pasta come a buttarga. Cioè la secca e gratis, fai una pasta importante, capito? Con la zucchina grattata. Capito? No, io una pasta zucchina grattata marcia. Mi sono affezionato. Voglio che muoia di morte naturale quando passi. Sì, è già morta. È come Stalin, è come Lenin, che è lì esposto, ma è morto. È come Lenin. Vedo ancora che ha segnali da qualche segnale sulla piazza rossa. Ieri invece, caro David del ristorante Terra Matta, avevo altre zucchine e le ho cucinate semplicemente tagliandole a fette, mettendole in forno con un po' di olio e pan grattato. Ecco, non so se approvi, David. Sì, è una zucchina graten. Va bene. Bene, ma anche quella che secca, bene o male, si può buttare al forno, gli può dare la stessa sorte alla fine, perché no? Col pane sopra, con un po' di olio, alla fine gli altri si fa, secondo me. Il problema è che non è venuta croccante, è molto gommosa, quindi vabbè. La zucchina sarà la qualità della zucchina, no? Cosa sbagliato? Devi lasciare dentro il forno spento un'oretta, se la lasciare dentro il forno spento un'oretta, dopo che hai cotta, quella prendeva e si essiccava, no? La facevi un po' più secca, perché è normale che appena cotta cacciava l'acqua. Infatti, sarà che gli ho messo sopra troppa acqua, perché poi siccome avevo paura che si scaldasse troppo come l'acqua gli hai buttato sopra l'acqua, mi sembrava troppo caldo, ho versato sopra un po' d'acqua per quello che... Ma dai, cioè, vabbè, ma proprio la base. David, che si mangia oggi, che hai comprato? Allora, oggi ho comprato dei tombarelli, che è un pesce un po' particolare, è un misto tra uno sgombro e un tonno. Io lo spaccio come tonno, perché quando gli dico tombarella la gente si impressiona. No, come lo spaccio, scusa? No, una truffa. Mi dai il tombarello. No, io gli dico che è tombarello, però mi dice, ma che cos'è il tombarello? Dico, è una specie di tonno, perché gente non lo conosce bene il tonnarello. Sarebbe un tonnetto proprio, la forma di un tonnetto è grigio, però la carne è molto nera, non è un tonno, perché la carne è nera, no? È scura, è tipo uno sgombro. Però si taglia come il tonno, si chiama tombarello, proprio tombarello. Io lo faccio la pasta col tombarello oggi e il rosmarino, e poi lo faccio alla cacciatora per secondo, quindi faccio un filetto di tombarello alla cacciatora col vino, olive da giasche, capperi e alla cacciatora, un po' di rosmarino e salvia. E poi oggi abbiamo una grande cosa, è la parmigiana, due ne ho fatte, una per i vegani, una invece per i carnivori. I vegani, attenzione, guarda, allora ti leggo questa notizia che è uscita, bravo che hai detto che ormai c'è sempre più persone che diventano, più che vegani, vegetariani, ma lo fanno anche per questo coronavirus, si distanziano dagli animali, dalla carne, è vero secondo te? Cioè è aumentato il numero di persone che non mangia la carne? Così, da esperienza. Allora, io diciamo che vendo tantissima carne, fondamentalmente, Beh, guarda, io sono sempre stati i vegetariani, i vegani, cioè io non c'ho avuto mai il vegano estremista che è venuto qua, perché il vegano estremista non viene qua, il vegano non c'entra neanche qua, perché comunque io ci ho attaccati i polli, ci ho attaccati i guanciali e bestie, quando entri dici, ma capito, cioè, il vegano non entra qua. Cioè, quindi io ho delle persone vegetariane che vengono, però a me non mi è cambiato niente, sempre gli stessi, perché ci avrò sti clienti qua che sono sempre gli stessi, a me non vengono i vegetariani. Io poi ho tanta roba dai vegetariani, quindi alla fine la zucchina di Manera, potresti dire la zucchina di Manera per i vegetariani. Cioè, abbiamo quella grande zucchina gratin, no? Quindi oggi tombarello, certo il nome non è bello, anche dirlo il tombarello è brutto, il tombarello, però si chiama così, cioè uno va a fare una ricerca, si chiama tombarello, infatti non si può fare come tonno e non come sgombro, perché è il tombarello. Sembra un tombo, quelli che vanno a trafugare nelle tombe, un tombarello. Cos'è quelli un che vanno a rubare le cose nelle tombe? No, ma guarda, fai le foto. Se fai le foto, proprio sembra un tonnetto, effettivamente. Sembra un tonnetto, però in realtà dentro la carne è nera, è scura come quella dello sgombro. Io infatti dico, è specie in tonno, perché la gente dice, ma che è? C'ha paura a mangiare la pasta col tombarello, dice, ma che ne stai da? Invece devi stare tranquillo, è proprio il sapore uguale a quello del tonno, però la carne è scura. E poi è più buono perché comunque è un pesce, cioè non è un pezzo di roba. Io infatti faccio tutti questi pesci particolari perché così la gente capisce che vado a prendere la mattina. E comunque stava, adesso non voglio dire, però stava un gran prezzo, gran prezzo, cioè, perché stamattina al mercato io l'ho pagato per il cliente. No, per il cliente svolta sempre qui, perché qui il cliente c'ha sempre un piatto di pasta, paga 10 euro per pesce. Io l'ho pagato 6 euro al chilo stamattina. Un buon prezzo, ma il prezzo del tombarello è quello, cioè quello viaggia dai 5 agli 8 a seconda della stagione, solo che non si trovano quasi mai i tombarelli, perché è un pesce un po' strano, capito? Non è che uno a menù c'è il tombarello, io faccio una cucina espressa, quindi tutto quello che trovo al mercato lo porto. Se trovo la rada, domani faccio broccoli la rada, se trovo quello te faccio quello, quindi oggi c'erano i tombarelli e te mangi i tombarelli. Se ti sta bene, bene. Da bambino, quando ero bambino, mia madre mi dava gli sgombri Pinocchio. Non so se ricordate. Sono gli sgombri? Pinocchio sarebbero tipo ma che vuol dire gli sgombri? Aspetta che è una marca, è una marca. Gli sgombri Pinocchio. Sì, la marca sgombri Pinocchio, che è un po' strano perché poi sgombro naturale Pinocchio in scatola, sì, eccolo qua, Pinocchio, esatto. Lo sgombro Pinocchio, gli sgombri Pinocchio in scatola. Ma perché che Pinocchio? Poi è strano perché Pinocchio venne salvato da un tonno, quindi casomai dovrebbe essere tonni Pinocchio, invece non gli sgombri Pinocchio. Per quello, sgombro. Ma non so se Pinocchio sgombro venne salvato da uno sgombro o da un tonno o da un tombarello. No, da un tonno. Forse no, era un tombarello. No, da un tonno. Può essere che hanno chiamato Pinocchio perché assomiglia a legno o sgombro. Lo sgombro sembra un pezzo di legno una volta smontato. Forse per quello, non lo so. Comunque oggi pasta al tombarello, secondo al tombarello a cacciatora, sì. Con olive taggiasche, alla grande. David, grazie. Oh, che dobbiamo fare? Guarda che gli americani quest'anno non vengono, Tu e tutta la vita mia qua da americani. quindi è vero che sei in borgata, quindi chi se ne frega. Ciao Davide, un grande abbraccio. Ciao, a presto, ovviamente. Ciao, grazie. Ciao. Il nostro Terra Matta, via Trionfale, andate lì e dite vi manda Manera, così vi fanno pagare anche il conto doppio. Comunque Manera, tu sei l'unico che non conosce gli sgombri Pinocchio. Guarda che sono un grande classico. Ma le hai viste adesso? Anche per chi vive da solo. Quando col vai via da solo, prendi uno sgombro Pinocchio e uno stracchino di nonno Nanni. Più gli sgombri Pinocchio. Lo stracchino nonno Nanni è più per la terza età, invece lo sgombro Pinocchio è più per i bambini o al limite quando vai a vivere da solo. Ogni genere ha la propria età caratteristica, no, di riferimento. Lo sgombro Pinocchio, va bene. Dai, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Cari, carissimi, siamo qui a concludere questa puntata di Uno Nessuno 100 Milan avete sentito, ci sono le code a Amazone, ci sono le code in Liguria per le autostrade, per i lavori, ma noi vi portiamo in altri luoghi, grazie al nostro Francesco Vagone. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli amici ascoltatori di Radio 24 e benvenuti nello spazio di Vagone Tour International, l'agenzia Fiacci, per i fiacciatori che non si accontentano delle solite emete. Per fortuna possiamo ricominciare a fiacciare e allora sono qui per suggerirvi qualche... A fiacciare e allora sono qui per suggerirvi qualche destinazione da sogno. Allora, a partire da Beronzi Superiore, una graziosa località dove potete camminare, sciare, nuotare, clacson, campana, spray e tutte le altre cose previste dal Gioca Juer. Beronzi superiore è un piccolo gioiello della penisola, ma non ancora invaso dal turismo di massa. Infatti è stata una delle poche destinazioni al mondo libere dal coronavirus e comunque se quando arrivate vi provano la febbre con la pistola laser e ce l'avete, vi tengono lo stesso. Quindi questa è una grande opportunity per chi volesse venire a Beronzi. A Beronzi superiore gusterete una vacanza piacevolissima, come quando vostra moglie si lava le mani e l'acqua della doccia diventa improvvisamente argelata. E allora perché non cogliere questa opportunità? Partiamo subito dai grandi vantaggi dedicati ai viaggiatori di Facone Tours International. Chi sceglie di visitare a Beronzi in questa stagione potrà approfittare dell'esclusiva promozione luglio a Beronzi. È una simpatica gara, una gara da fare con gli amici. Chi riesce ad attraversare l'asfalto bollente senza ciabatte alle 2 del pomeriggio ha subito 2 euro da spendere negli esercizi locali e in particolare nella farmacia locale per provvedere alle ustioni eventualmente provocate dall'asfalto a bollente. Un'opportunità davvero imperdibile. Ma ora, cari amici di Radio 24, è arrivato il momento di scoprire le straordinarie attrazioni di Beronzi, ancora sconosciute ai più. La prima attrazione da vedere a Beronzi Superiore, Angelo, l'uomo con le manone, con le mani grandi, grandi, grandi, mani grandi senza fine, diceva la canzone. Le manone di Angelo, quando Angelo prova a prendere una mosca con la mano, stermina un ecosistema. Se Angelo fa ciao, il giorno dopo i giornali dicono che c'è stato un'eclissi. Una volta Angelo si è slogato un polso e per bendarlo hanno dato 4 lenzuola matrimoniali. Si dice... Mamma mia, che ma non questo. Capisco questa ilarità fuori luogo. No, no, per carità. È una carità, è una grande attrazione. Si dice che il minimo battito di mani di Angelo sia in grado di provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Quando Angelo è andato a vedere una partita all'NBA di Madison Square Garden, invece di comprare il ditone in gomma piuma, ha usato il suo. Ma Beronzi, una hilarità senza motivo che dispiace anche all'amico Angelo. Sì, comunque ma l'indice Beronzi, in gomma piuma. E l'indice? Ma questo lo dice lei, ognuno può usare il dito che vuole, l'indice, il medio, l'alluce, il mignolo. Ma a Beronzi Superiore le attrazioni sono moltissime. Per esempio la escort anziana che guida una escort vecchia. Oppure il sosia di Albano, sposato con la sosia di Romina, che poi l'ha lasciata per la sosia della Leccisio. Oppure il fiorista con l'allergia, che tiene chiuso da aprile a settembre. Le sorprese a Beronzi superiore non finiscono mai. No, e allora mai. Prenotate subito la vostra vacanza con Facone Tour International, l'agenzia Fiaggi che vi fa scoprire mete inconsuete. Le mette inconsuete sì, Facone sì, Tour International. Sì. Mi adesso dica. Ripeta con me. Viaggio. Viaggio. Viaggio. Ripeta Viaggio, con me. Agenzia Viaggi. Agenzia Fiaggi, che è la Vagone Tour International, la nostra simpatica coronavirus. Agenzia. Coronavirus. Coronavirus, il nostro amato coronavirus che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di lockdown. Abbiamo avuto questo lockdown. Scusi, cos'è che abbiamo avuto? Ne abbiamo parlato per molti mesi a partire da marzo, la lockdown. Sì. E questo è stato un problema causato dal coronavirus, cari amici. Senta, sì, senta, Beronzi Superiore ovviamente è locato, le piace a tre ore. Allora, vedo che lei ha bisogno di qualche secondo per arrivare fino alla fine della trasmissione, caro Alessandro Milan. No. E quindi diciamo che Beronzi è a 3 ore dal mare, 3 ore dalla montagna, Superiore. 3 ore dalla collina. E quindi è il luogo ideale per spostarsi in ogni destinazione, per la vacanza ideale, per chi sceglie di andare 3 ore dal mare, 3 ore dalla montagna e 3 ore dall'agriturismo. La vacanza ideale. Va bene. Signor Vagone, io noto solo che lei mi sembra un po' peggiorato dal punto di vista della logopedia, però se vuole qui le regaliamo un buono, un voucher. Tanto... un bel voucher. quella roba lì, gliela regaliamo per due o tre sedute da un buon logopedista, eh? È d'accordo, ce ne sarà uno a Beronzi Superiore. Va bene, caro signor Vagone, la ringraziamo, ci mette sempre comunque del buon umore, uno vorrebbe viaggiare anche solo ad ascoltarla, diciamo così. Riscopriamo la nostra bella Italia quest'estate con Beronzi Superiore. Beronzi Superiore, cioè, visit Beronzi. La ringraziamo grazie molto. Grazie a lei. Ringrazio tutti gli ascoltatori, la mail per scriverci è 100.000@radio24.it, ci sentiamo puntuali domani alle 9.00.